Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Operazione di polizia all'interno del centro per stranieri di Gradisca di Sonso. Agenti e funzionari della questura di Gorizia nella struttura hanno cercato tutto quanto possa essere impiegato durante tentativi di fuga e disordini. Giorno del ricordo, nel pomeriggio cerimonia alla Camera dei Deputati con la proiezione di un documentario di Rai Cultura intitolato L'Odissea Giuliano Dalmata dalle foibe all'esodo. Fra gli interventi quello di Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale, quindi la premiazione di alcuni progetti scolastici. Economia, la Filcams CGL fa il punto della situazione del terziario a Trieste con un dibattito nel pomeriggio al Teatro Miela. A Udine Confcommercio rivela che in 10 anni nel centro storico i negozi sono calati del 20% e nel resto dell'area urbana del 15%. Abbassare i limiti di velocità a 30 km orari abbatte il rischio di incidenti stradali e anche quello di malattie polmonari dovute all'inquinamento dell'aria. Secondo una statistica, 2 morti in meno alla settimana a Udine, 4 a Trieste, 2 a Pordenone, 1 a Gorizia. E dall'Associazione Medici per l'Ambiente arriva un sì convinto alle cosiddette città 30. Le previsioni del tempo delineano una situazione pessima per le manifestazioni carnevalesche del fine settimana. Mentre Udine ha già cancellato quelle all'aperto, in altre località si aspetta. Nel giornale radio l'intervista al meteorologo. Tause è una frazione del comune di Treppocarnico e Radio Tause è una web radio presente a Sanremo fra le 200 emittenti italiane accreditate al festival. Siamo andati a conoscere intervistatori, programmisti e tecnici, tutti giovanissimi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. La polizia, con l'impiego di personale giunto anche dal reparto mobile di Padova, sta effettuando un'ispezione all'interno del centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonso. Agenti e funzionari, una 60 in tutto, cercano strumenti che possono essere utilizzati per dar luogo a rivolte, tentativi di fuga o disordini, episodi di violenza divenuti negli ultimi tempi più frequenti. Nel centro di permanenza per rimpatrio di Gradisca di Sonso non c'erano né armi né droga. Sono stati però trovati oggetti come sbarre di metallo di velto e lavandini staccati che poi servono ai detenuti anche per organizzare le fughe. Sono state 25 a dicembre e 6 gennaio, secondo i dati in mano a Giovanni Sammito del sindacato di polizia SIULP. È il bilancio dell'operazione di bonifica straordinaria pianificata dalla questura di Gorizia con l'utilizzo di 60 tra uomini e donne di polizia, carabiniere e guardia di finanza. La prima di questo tipo con il nuovo questore Luigi Di Ruscio. Negli ultimi mesi la tensione nel CPR è cresciuta. 2 gli incendi solo nell'ultima settimana, oltre al tentativo di fuga con la caduta dall'alto di un tunisino di 34 anni che si è ferito seriamente. Perché questo aumento della conflittualità? Lo chiediamo al prefetto Raffaele Ricciardi. Le persone ovviamente sanno che il passaggio successivo al CPR è il rimpatrio nei paesi di origine e non sempre è una prospettiva per essi interessante. Anche la potenziale possibilità che i tempi di trattenimento vengano allungati fa sì che diversi cercano di scappare dal centro. Nei CPR possono essere trattenuti in detenzione amministrativa stranieri senza permesso di soggiorno fino a 18 mesi, in attesa che si svolga l'iter per il rimpatrio, che con alcuni paesi può essere lungo e irto d'ostacoli o addirittura impraticabile. Solo la metà di chi arriva a Gradisca viene effettivamente riaccompagnato a casa, gli altri escono dalla struttura con un decreto di espulsione in mano. Nel 2022 sono tornati nel proprio paese 400 degli 800 uomini passati per il CPR. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca poco dopo le 8.30 di oggi in autostrada 4 a circa 200 metri dopo la barriera dell'Isert in direzione Venezia. Un mezzo pesante ha dapprima colpito la barriera di sicurezza centrale, poi quella laterale per poi rovesciarsi a bordo strada. Ancora al vaglio le cause dell'incidente da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto con vigili del fuoco, sanitari del 118 con un'ambulanza da Monfalcone, personale di autostrade Alto Adriatico e soccorso meccanico. Lievemente ferito l'autista del mezzo, trasportato in codice giallo all'ospedale di Monfalcone. Circa 2 chilometri di coda che si sono formati subito dopo il ribaltamento, ma che poi nel corso della mattinata si sono ridotti a 300 metri, mentre i mezzi di soccorso stanno cercando di rimettere in asse il mezzo pesante, svuotandolo dai bancali di scatolame in trasporto, in un'operazione che richiederà ancora alcune ore. Le problematiche dell'agricoltura e l'ondata di proteste che sta investendo tutta Europa, le tensioni anche fra gli addetti ai lavori del Friuli Venezia Giulia, al centro di un incontro fra l'assessore Zannier e una delegazione di coltivatori in mattinata nella sede della regione di Udine. I rappresentanti del Comitato per il Bene Comune, gli agricoltori che il 29 gennaio hanno dato vita alla manifestazione con i trattori a Udine, hanno incontrato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier. Nessun rombo di trattori sullo sfondo, solo la volontà di avviare un dialogo per uscire dagli impasse che affliggono questo comparto del settore primario. Incontro interlocutorio che ha fatto però registrare alcuni punti di convergenza. L'assessore Zannier. Oggi la parte più importante è quella proprio dei sostegni finanziari, perché sulle regole anche noi siamo molte volte vincolati da regole sovraordinate che dobbiamo semplicemente attuare. Sulla parte finanziaria invece credo che questa sia la regione che in assoluto più di ogni altra riesce a mettere a disposizione, penso solo ai 150 milioni di euro di liquidità messa nel 2023, il settore. È chiaro anche che lavoriamo per cercare con le norme regionali di avere linee molto sburocratizzate, cosa che non possiamo fare con quelle europee. Massimo Lauzana è il portavoce del comitato. Abbiamo trovato una persona veramente disponibile, non è stato solo un assessore all'agricoltura, ma ho sentito una persona vicino proprio ai beni delle famiglie. Andrete a Roma o a Sanremo? Né a Roma né a Sanremo, perché gli agricoltori, il loro obiettivo è di lavorare e produrre. La mia intenzione non è di accendere i trattori e fare carnevalate, questa è una questione seria dell'agricoltura, noi vogliamo portare avanti dei punti e dei problemi, ci sono molte maniere per fare protesta. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Via libera al primo decreto di concessione dei ristori per i danni subiti dal patrimonio abitativo a seguito dagli eventi meteorologici verificatisi fra il 13 luglio e il 6 agosto del 2023. Individuati 10.776 beneficiari privati per un valore complessivo di risorse assegnate pari a oltre 74 milioni e mezzo di euro. A darne annuncio sono il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e gli assessori alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, e alle Infrastrutture, Cristina Mirante. Il ristoro concesso coprirà il 45% delle voci di spesa ammissibile, cioè gli elementi strutturali, le finiture interne ed esterne della copertura, i serramenti, oltre che le prestazioni tecniche e l'attività di supporto all'inserimento delle istanze. Il contributo concesso andrà da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 30.000 euro. In vista del giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata che ricorre il 10 febbraio, oggi nella sala della Regina di Montecitorio a Roma è in programma alle 16.30 la proiezione dello speciale di Rai Cultura L'Odissea giuliano-dalmata dalle foibe all'esodo. Interverranno il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente della Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Gli interventi saranno trasmessi in diretta su Web TV Camera a questo indirizzo webtv.camera.it. Seguirà una discussione con il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salbertini, il giornalista e scrittore Gian Michalessin, il musicista Umberto Smaila che parlerà della madre, esule fiumana, e Giuseppe Giannotti, vice direttore di Rai Cultura. Al termine saranno premiati i progetti realizzati dagli studenti nell'ambito del concorso nazionale 10 febbraio Un mondo e un passato, storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati. Quali sono le prospettive del commercio e del turismo a Trieste? La Federazione Lavoratori del Commercio, degli Alberghi, delle Mense e dei Servizi, FILCAMS di Trieste e Gorizia, cerca di fare il punto nel pomeriggio in un incontro al Teatro Miela. Un'assemblea generale si svolgerà alle 14.30, a seguire un focus sul terziario di mercato a cura dell'IRES, mentre alle 17 è in programma una tavola rotonda con le istituzioni, la FIPE, Confcommercio e Federalberghi. In serata, sempre al Miela, lo spettacolo teatrale Dita di Dama, per parlare di donne e lavoro, alle 20. E a Udine, Confcommercio ha calcolato l'incidenza della crisi sulla chiusura delle imprese cittadine. Stando ai dati dell'Osservatorio sulla demografia d'impresa nelle città italiane, di Confcommercio nazionale, i dati si riferiscono al giugno scorso, dal 2012 al 2023 il calo è del 20% nel commercio al dettaglio del centro storico, da 564 a 448 imprese, 116 in meno, e del 15% nell'area non centrale, da 403 a 343, 60 in meno. L'impatto della crisi è meno rilevante su alberghi, bar e ristoranti. In centro storico si passa da 358 a 343, meno 4%. Un dato compensato da un incremento fuori dal centro, da 235 a 244. Più 4%. Le difficoltà del terziario, che rimane peraltro settore centrale nell'economia cittadina, se pensiamo agli oltre 11.500 lavoratori impiegati a Udine nel commercio e nell'ospitalità, commenta Giovanni da Pozzo, vicepresidente nazionale di Confcommercio e responsabile provinciale di Udine, emergono quando manca una programmazione urbanistica che sia coerente con le dimensioni della città. Luoghi di lavoro e relazioni umane sui posti di lavoro, da cui sempre più spesso scaturiscono le premesse per malattie professionali. Vista la loro rilevanza, la CISL regionale ha organizzato a Trieste una tavola rotonda in cui è stato fatto il punto della situazione in Friuli Venezia Giulia. Primo obiettivo, parlarne. Se l'infortunio sul lavoro fa spesso notizia, le malattie professionali restano invece nell'ombra. Per questo la CISL ha organizzato un convegno a Trieste, portare l'attenzione su un fenomeno in aumento. Nel 2023 in regione sono state oltre 2.000 le denunce presentate, 300 in più rispetto all'anno precedente. Il segretario della CISL del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Pizzo. Nel 2022 ci sono stati 43 morti in conseguenza di malattie professionali. Io penso che sia sufficiente per dire che è un'emergenza da affrontare subito con la massima determinazione per abbassare quel numero, possibilmente per azzerarlo. Le malattie preponderanti riguardano l'apparato respiratorio. Negli ultimi 15 anni il 65% dei casi che arrivano da Sugi sono ancora legati all'amianto. Sono circa 40 casi di mesoteliome e altrettanti di tumore al polmone. Si tratta di patologie che hanno latenza anche di 50 anni, ma danni sono causati anche dalle vibrazioni e dall'impiego di mezzi meccanici, soprattutto all'apparato muscolo-scheletrico. Sono dei dati preoccupanti perché non stiamo parlando di lavoratori che si ammalano in età avanzata, stiamo parlando di lavoratori che cominciano ad avere delle conseguenze pesanti già attorno ai 40 anni, 45, cioè un'età troppo lontana dalla pensione e soprattutto un'età, un'anzianità ancora troppo giovane per poter giustificare un danno del genere. La situazione regionale non è omogenea, ma segue le diverse caratteristiche del territorio. La direttrice regionale dell'INAIL, Angela Forlani. Sicuramente Udine ha il maggior numero di malattie professionali, visto la consistenza, visto anche il territorio anche agricolo che in qualche modo caratterizza la città, ma anche Trieste e Gorizia si caratterizzano non solo per i numeri che sono abbastanza alti, ma anche per una serie di malattie ancora asbesto correlate. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Disagio giovanile in tutte le sue sfaccettature e problematiche all'attenzione del Consiglio regionale, dove dinanzi ai consiglieri della sesta commissione stanno sfilando diversi addetti ai lavori. A dare un primo quadro sul disagio giovanile durante l'audizione multidisciplinare in sesta commissione del Consiglio regionale, un dato richiamato dall'Ufficio Scolastico Regionale emerso da una ricerca che ha coinvolto oltre 260 classi del Friuli Venezia Giulia, appena il 30% delle ragazze e il 58% dei ragazzi pensa di avere un buon benessere psicologico. Allarmano anche i dati riportati dai servizi sull'aumento dell'abuso di sostanze e dei disturbi alimentari, autolesionismo, utilizzo problematico dei videogiochi, ma anche anche sull'incremento dei reati commessi dai più giovani, riferiti dalle forze dell'ordine e dalla presidente del Tribunale dei minorenni. Bullismo e cyberbullismo, ma anche abusi sessuali, rapine alla normata, stalking, reati spesso perpetrati in gruppo. E a preoccupare di più è l'età in cui esordisce il disagio, sempre più precoce, oggi scesa sotto i 14 anni, riferiscono gli esperti. Una situazione peggiorata con la pandemia che, segnalano da più parti, ha fatto emergere nei giovani la paura del futuro, sul quale in pochissimi hanno le idee chiare. A confermare la realtà sono anche le voci dei rappresentanti delle quattro consulte provinciali, degli studenti, che denunciano uno stato d'ansia e stress dilagante, ma anche scelte educative sbagliate che spingono all'abbandono, fenomeno che pure si registra in crescita dagli studenti, oggi rappresentati in aula anche da una classe del liceo Oberdan di Trieste. La richiesta di interventi dedicati per essere ascoltati come vorrebbero sul fronte della prevenzione, chiamate in causa le istituzioni, scuole, servizi, politica e le famiglie sollecitate a rimettersi in discussione e a fare rete insieme ai ragazzi per fronteggiare il disagio sin dal suo manifestarsi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il limite dei 30 all'ora abbasserebbe l'inquinamento dell'aria anche del 30% e sarebbe molto più basso il rischio di incidenti stradali, anche con conseguenze gravissime. Abbassare i limiti di velocità a 30 km orari e diminuire l'inquinamento, secondo i parametri dell'OMS, permetterebbe di evitare 2 morti alla settimana a Udine, 4 a Trieste, 2 a Pordenone, 1 a Gorizia. Lo stima ISDE Italia, Medici per l'Ambiente, che assieme a Legambiente dice sì alle cosiddette città 30. Il medico pneumologo Mario Canciani indica come, sulla base della letteratura scientifica, la riduzione della velocità farebbe calare l'inquinamento del 20-30% nei centri urbani, con ricadute sulla salute, meno problemi respiratori per i bambini e meno problemi cardiovascolari per gli adulti. Il 30% di infarti, ictus ed emorragie cerebrali dipende da quello che respiriamo, aggiunge Canciani. A Bologna, nelle prime 2 settimane di applicazione della misura, gli incidenti sono calati del 21%. A livello regionale si è detto contrario il presidente Federiga. Patto per l'autonomia ha presentato una mozione e un ordine del giorno per il finanziamento delle infrastrutture che vanno in questa direzione. Mozioni presentate ancora da discutere a Trieste, fatta proprio invece nella giunta a Gorizia, applicabile laddove possibile, indica il sindaco Ziberna. In Corsa Italia, per esempio, anche con il limite a 50 km orari, la velocità media reale non superava i 29 km orari. Anche Udine vuole andare in questa direzione. Il limite dei 30 è una direzione inevitabile e auspicabile, afferma l'assessore Marchiol. Non è una finalità, bensì un mezzo per arrivare a città più sicure e vivibili. Dal rapporto malaria di Legambiente emerge infine che i livelli di inquinanti atmosferici nelle 4 ex province sono stabili ormai da diversi anni, in linea con la normativa attuale, ma restano distanti dai limiti auspicati dall'Europa e suggeriti dall'OMS per il 2030. Legambiente propone infine anche maggiore attenzione alle emissioni di ammoniaca nelle aree agroindustriali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone, al centro antiviolenza a supporto delle donne, sono in aumento le richieste d'aiuto, un fenomeno a cui le istituzioni rispondono con misure che, se applicate con rapidità, hanno un effetto rassicurante per le vittime. Provvedimenti più restrittivi e celeri aiutano le donne a denunciare e a liberarsi dalla violenza. L'ultimo caso in Friuli Occidentale è quello di un 42enne accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna. La donna ha denunciato e ottenuto prima un ammonimento del questore e poi, viste le reiterate gravi minacce e vessazioni nei suoi confronti da parte dell'uomo, il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Laura Bosi è direttrice di Voce Donna. Quando il maltrattamento viene reiterato, l'atto persecutorio viene reiterato, provvedimenti come la misura del braccialetto elettronico o altri provvedimenti maggiormente restrittivi, se agiti tempestivamente, sortiscono l'effetto in qualche modo di rassicurazione nei confronti delle vittime o di chi deve decidere se denunciare o meno un atto di questo tipo. Quindi assolutamente positiva il provvedimento del braccialetto elettronico, auspichiamo tempi ancora più brevi, più celeri, insomma, rispetto all'emissione di queste misure. Al centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone, le richieste di aiuto sono in crescita. Il 2023 si è chiuso con un più 25% di accessi, trend confermato nel primo mese dell'anno. Ancora Bosi. Il mese di gennaio sta seguendo lo stesso andamento, abbiamo ad oggi 71 donne in carico al centro antiviolenza, alcune dell'anno precedente, altre invece sono proprio nuovi contatti. Significa una maggior consapevolezza, una maggior conoscenza dell'esistenza dei centri antiviolenza come luoghi dove si può chiedere aiuto e quindi non un aumento del fenomeno, bensì una risposta maggiore delle vittime che possono pensare di chiedere aiuto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Croce Rossa regionale compie quest'anno 160 anni di attività. Siamo stati alla sede regionale di Trieste, di Piazza Sansovino, questa mattina durante la nostra trasmissione televisiva. Buongiorno Regione. 3.000 volontari e uno su tre è giovane. La Croce Rossa regionale compie quest'anno 160 anni e sempre più spesso tra le nuove leve si vedono under 30. Milena Cisilino, presidente regionale di Croce Rossa. Questo è un record di cui noi andiamo molto fieri. Ci consentono una penetrazione nelle nuove generazioni che poi saranno il futuro della nostra associazione. 160 anni di storia, la sede di Trieste ha però una storia ben più lunga che inizia sotto l'impero austro-ungarico e continua sotto il governo alleato americano. Oggi la Croce Rossa di Trieste conta oltre 300 volontari e più di 26 dipendenti. Francesco Bozzetto, vicepresidente del Comitato di Trieste. Le attività sono sicuramente quelle del servizio di trasporto sanitario. Ogni giorno le nostre ambulanze operano a favore dei cittadini, coordinate dalla centrale operativa regionale, la SORES, nel servizio di emergenza, nelle dimissioni dal pronto soccorso, nei trasporti sanitari da domicilio a luogo di cura e viceversa. Molto sviluppate le attività di inclusione sociale. Non ci occupiamo soltanto di distribuzione di viveri, distribuzione di medicinali di uso comune, distribuzione di carte per gli acquisti in supermercati, ma anche abbiamo un centralino di ascolto che specialmente in epoca Covid è stato di grande utilità per la popolazione. A Pordenone, lo abbiamo raccontato più volte, la Croce Rossa è impegnata in prima linea sull'accoglienza migranti. Per quanto riguarda qui a Trieste, la situazione comunque è sotto il controllo delle autorità, appunto, che sono competenti, il comune, la prefettura. Noi come Croce Rossa di Trieste ci siamo sempre messi a disposizione delle autorità e siamo sempre disponibili a dare una mano per tutto quello che serve. Ma come diventare volontari? Basta un click iniziale, quindi rivolgersi a quello che è il nostro sito nazionale www.cri.it e lì trovare la sezione diventa volontario e poi essere contattati da una delle nostre sedi nel momento in cui c'è un corso in calendario. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le previsioni meteorologiche avverse si stanno abbattendo sulle manifestazioni in calendario sabato e domenica per il Carnevale. Udine, ad esempio, ha cancellato tutti gli eventi all'aperto previsti per il fine settimana. In altre località si sta ancora attendendo per decidere se far uscire o no i carri. Con Gabriele Fasano dell'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA vediamo più nel dettaglio come sarà il tempo. Da domani, in particolare dalla notte tra giovedì e venerdì, avremo l'arrivo di una depressione che porterà correnti umide sud-occidentali, appunto a partire da tutta la giornata di venerdì, con delle piogge, delle precipitazioni che saranno estese sia venerdì sia sabato. Nel complesso venerdì e sabato ci aspettiamo delle piogge abbondanti sulla pianura, anche intense sulla zona prealpina. Un po' più moderate nella Carnia, più interna, e sulla costa, quindi zona di Trieste e della Laguna. Comunque probabilmente pioverà, anche se in modo debole, anche in queste zone. La quota neve sarà piuttosto alta, sarà intorno ai 1400-1700 metri sulle prealpi, leggermente più in basso nelle aree alpine più interne, però comunque tra i 1300 e i 1500 metri. Domani e sabato soffierà anche scirocco, ci sarà scirocco che sarà moderato sostenuto sulla costa, quindi un po' di vento da sud-sud-est, vento anche un po' in quota in montagna. Domenica proseguiranno probabilmente, al momento sembra, le precipitazioni, che saranno però più moderate, potrebbe comunque piovere per gran parte della giornata, anche se in modo un po' più sparso. L'inizio della prossima settimana vede probabilmente da lunedì l'abbassamento delle probabilità di pioggia, diciamo che è ancora una tendenza, però sembra che lunedì e martedì il tempo inizierà a migliorare leggermente con anche un aumento della pressione atmosferica. E passiamo ora alla situazione meteo attuale. Il cielo è coperto su Pianura e Costa, da coperto a poco nuvoloso sui monti. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10 gradi, a Gorizia 9 gradi e mezzo, a Pordenone 9, a Udine 8 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo e Tarvisio 8, Forni di Sopra 5 gradi e 5 decimi, Piancavallo 1 grado e mezzo, Sappada 0 gradi, in quota sul Monte Zoncolan 1 grado e 5 decimi sotto lo zero, sulla costa grado 10 e a Lignano 9 gradi. Una notizia d'agenzia uscita in questo momento in occasione del giorno del ricordo: secondo quanto si apprende, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sabato alla cerimonia commemorativa al Museo Nazionale della Foiba di Basovizza, dove la cerimonia è in programma alle 10.30. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Vittorio Sgarbi torna in Friuli Venezia Giulia con la sua lezione spettacolo su Caravaggio e Pierpaolo Pasolini. Inizio alle 20.45 al Teatro Pierpaolo Pasolini a Casarsa della Delizia. Debutta al Politeama Rossetti di Trieste il musical Cats, di cui state ascoltando le note, nell'edizione di Massimo Romeo Piparo sulle musiche di Andrew Lloyd Webber. Lo spettacolo, per la prima volta ambientato a Roma, sarà a Trieste fino a domenica 11. In scena una colonia di gatti umanizzati che ballano tra fantasia, dramma e romanticismo. Sul palco oltre 30 artisti accompagnati dall'orchestra dal vivo, diretta dal maestro Emanuele Friello, e le coreografie di Billy Mitchell. L'inizio alle 20.30, lo spettacolo sarà preceduto da una prolusione alle 18 a cura del professor Peter Brown a ingresso libero. Dopo il video di Mahmood girato nel quadrilatero triestino di Rozzol Melara per la sua canzone Tutta Gold, un altro pezzo di Friuli Venezia Giulia al Festival di Sanremo. Andiamo a conoscere i giovani redattori e tecnici di Radio Tausia, una web radio della località dell'Alto Friuli accreditata al Festival della Canzone Italiana. Daniele Del Forno. Daniele Zossi. Fox. Rino. Martina. Sono partiti da Tausia, ecco lui, il capo spedizione. Chicco, per gli Chicco. Amici, per i parenti Federico, va bene uguale. Da Tausia, che ora siete partiti, che viaggio è stato? Allora, siamo partiti con il furgone verso le 10:30, siamo arrivati con 2 ore di ritardo perché dobbiamo fare i contenuti in autogrill, dobbiamo fare i contenuti in giro, abbiamo perso tempo, però è stato bello. 10:30 del mattino? Sì, siamo arrivati alle 8:30 all'incirca. 8:30 di sera. Come sta andando questo festival? Come lo seguite? Allora, è impegnativo e abbiamo una persona che ci rifà il trucco ogni giorno perché le occhiaie iniziano a vedersi un po' troppo, perché dormiamo poco, lavoriamo tantissimo, ma è bello portare il Friuli Venezia Giulia con noi al festival e divertirci. Direttamente da Tausia, un commento sulle canzoni che abbiamo sentito. Allora, molto orecchiabili, molto radiofoniche, dobbiamo ancora realizzare perché siamo nel caos. Cioè, io ho seguito il festival dormendo un pochino, un po' sveglio perché avevo la diretta al mattino, quindi abbastanza complesso. Cantanti, nomi. Cantanti, Angelina Mango, Alfa e molto interessante, Emma, super pezzo, anche Loredana Bertè, che non è da Radio Tausia, ma c'è quel tocchino lì. E allora, dalla Carnia, trasferita in Riviera a Sanremo, salutiamo il nostro TGR Friuli Venezia Giulia. Ciao amici del Friuli Venezia Giulia. Vi salutiamo tutti con un bel Mandi. Mandi. Saluti in parkour. Mandi miei, Mandi. Oscar Puntel, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono le 12:57:20. L'assistenza tecnica è stata curata da Walter Bidonis e da Vassia Krismancic. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Per ora ci fermiamo qui. La nostra informazione torna in televisione col TG in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.